a volte perdo parti di me, rimango così solo in stati di abbandono, e a volte la mente è debole, io non sono in me, e a volte forte come altri perdo la lucidità da tutti l'anima, e non so più chi sono, e il gioco muore per mangiarti, sono solo un uomo, sono solo un uomo. Potrei chiederti perdono, ma sono solo un uomo. E a volte perdo parti di me, resta il vuoto che c'è in me, non so più chi sono, e a volte la mente avverti di colpe, io non sono in me, che cadono come niente, perdo la lucidità, l'istinto è un vento forte, e non so più chi sono, un lupo combattente, sono solo un uomo, che lotta in vano. Sono solo un uomo per togliersi di dosso. Potrei chiederti perdono, la stretta della morte, ma sono solo un uomo.